Englischen Kollegen mögen mir nachsehen, wenn ich Herrn Professor Fulvitore, den deutschen Teilnehmern, kurz vorstelle. Es ist ein Vorzug unseres Seminars, dass alle italienischen Landschaften, alle Provinzen, alle Regionen vertreten sind. Natürlich Piemont. Der Prinzipat Piemonts ist unbestritten. Milano, Turin, Pavia, Padua, alles im Norden. Gestern sind wir bereits nach Perugia und Rom vorgestoßen. Sizilien hat sich bemerkbar gemacht, war immer präsente. Und nun heute endlich der Tag Neapels. Wir haben die große Freude, einen der großen älteren Gelehrten Neapels unter uns zu haben, Herrn Lepore, hier und vor allem nun heute den Referenten Professor Fulvio Tessitore. An ihm sind für uns Deutsche drei Punkte wesentlich. Erstens, Professor Fulvio Tessitore ist Professor für Geschichte der Philosophie an der Universität Neapel. Er ist wohl einer der besten Kenner der deutschen Philosophie zwischen Hegel und Diltei. Er ist durch zahlreiche Publikationen über Humboldt, den Historismus, Comprensione Historicae Cultura, Profilo del Storicismo Politico, I Fundamenti della Philosophia Politica, die Humboldt ausgewiesen. Er ist also einer der besten Kenner auf dem Gebiet, der nun heute über Hegel und Humboldt hier sprechen wird. Herr Professor Fulvitore ist zweitens einer der großen Vermittler deutscher Philosophie. Er hat eine große Zahl von Schülern und Doktoranden an die deutsche Philosophie eines Nietzsche, eines Diltei, eines Hegel herangeführt. Und er ist drittens einer der großen Aktivisten der Akademie von Neapel. Er hat große Verdienste um die wissenschaftliche Tätigkeit dieser Akademie. Und ich freue mich deswegen besonders, dass wir ihn heute als Referenten haben. Caro Kollege. Debbo ringraziare il professore Christ per la troppa benevola presentazione e per iniziare a mettere le cose a posto posso utilizzare lo stesso professore Christ, il quale mi ha informato che nella biblioteca di Marburgo esistono le mie opere, ma non esiste per esempio la storia di Roma di Bonghi. Gli ho detto che è un caso di errore della storia universale. La visione dell'antico è senza dubbio uno dei più significativi momenti di incontro e di snodo della cultura filosofica e storica della Goethe Zeit, come del resto il seminario in corso ha ampiamente dimostrato. Intorno alla concezione dell'antico si articola infatti il confronto con il moderno e quindi la possibilità di distinguere le epoche tra di loro, scoprendo progressivamente il senso della profondità della storia e della diversità del presente rispetto al passato, insieme con la determinazione del destino del moderno e quindi l'opzione teorica sul significato del soggetto dopo la rivoluzione kantiana, circa l'inversione del rapporto tradizionale tra soggetto e oggetto, che non si limita al capovolgimento della funzione fondante attribuita al soggetto e non più all'oggetto, bensì investe un modo d'essere della stessa funzione fondante. mi presento subito come modesto filosofo e quindi chiedo scusa agli storici, alla realtà necessaria intesa come Dio trascendente o come ordine immanente di sostanze, Kant sostituisce l'uomo quale realtà finita e sensibile, costitutivamente sottoposto a condizioni e limiti in ogni sua attività. Cosicché di conseguenza l'originalità della soluzione kantiana sta nella inclusione della condizione e del limite nel modo d'essere del fondamento. Non è perciò un caso, a mio avviso, che Kant sia direttamente o indirettamente un referente indispensabile delle riflessioni che guardano all'antichità e specialmente alla Grecia, ora con struggente nostalgia per un mondo perduto e non più conquistabile, ora con l'impegno per il raggiungimento della completa formazione dell'uomo, che non rinnega la perfezione antica e però non pretende di saltare fuori dalla storia, bensì, restando nella storia, l'antico proietta nel futuro come meta esaltante, forse irraggiungibile, ma non perciò da abbandonare sfiduciati. L'antico come futuro è la tensione che fa scoprire, con altre riflessioni altrimenti nate, quale motore della storia le cause agenti e non le cause finali. Anche qui, in riferimento, questa volta polemico, con la filosofia della storia di Kant. Nel marzo 1788 Schiller pubblica nella rivista di Wieland, Deutscher Merkur, la prima stesura della lirica Gli dèi della Grecia, ritenuta al suo apparire e dopo un documento di paganesimo anticristiano e perciò, come si sa, oggetto di accese polemiche. L'immagine della grecità nella lirica famosa è quella di un mondo che ha realizzato nella sintesi di bellezza e verità la compiuta totalità dell'en kaipan. Quando il variopinto velo della poesia si avvolgeva amabilmente intorno alla verità, una pienezza di vita permeava il creato. Rispetto a questo mondo, nel quale amore stringeva tra uomini, eroi e dei un meraviglioso nodo di affetti, e celesti ed eroi e uomini mortali sacrificavano insieme, rispetto a questo mondo, il moderno è il mondo della scissione tra verità e bellezza, tra storia e poesia, tra sensibilità e spiritualità, provocata dalla critica della ragione, favorita dal cristianesimo col suo monoteismo opposto al politeismo greco, forma di convivenza più libera e più umana. Dice Schiller, dove scomparire un intero mondo di divinità perché una sola tra tante ne rimanesse arricchita. La natura, ormai privata dei suoi dei, per nascere di nuovo domani, oggi scava da sé la sua tomba. Oziosi tornano alla terra dei poeti gli dèi inutili a un mondo ormai uscito di minorità. Beato eternamente guarda nel lungo corso dei tempi solamente la propria immagine. Questo splendido mondo può tornare soltanto nel favoloso paese della poesia, come l'anno dopo, il 1789, nella lirica Gli artisti, Schiller teorizza, all'apparenza attenuando la struggente nostalgia per il tutto perduto nel nome dell'arte, che già conteneva nei simboli del bello ciò che dopo il trascorrere dei secoli la matura ragione seppe riconoscere, in realtà affermando contro Kant, dracone della Germania perché persecutore della sensibilità, una escatologia universale della bellezza che è sintesi di gioia, amore, libertà, in quanto è radicata in un discorso ontologico. È essa stessa l'essere che è totalità eternamente presente, non il predicato antropologico della natura, la quale del resto è indipendente dall'uomo. È assai probabile che anche Hegel, come Foster e Körner, Humboldt e Schlegel, per non dire d'altri, non solo abbia letto gli Dei della Grecia, ma se ne sia ricordato quando, nell'agosto 1788, scrisse, giovane allievo del ginnasio di Stuttgart, la breve esercitazione über einige charakteristische Unterschiede der alten Dichter. In essa, il mondo greco è quello dove cultura e storia concordano nella nativa fedeltà alla natura, nella immediata unione di vita e manifestazione della vita. La Grecia è il mondo della presenza, giacché vive nella natura, vale a dire nella semplicità di ciò che si manifesta senza scissione tra l'essere e l'apparire. Il che è, per contrario, il caso del mondo moderno, il quale, analizzando e conseguentemente separando gli aspetti delle cose, si realizza nella rappresentazione dell'essere e non nella sua presenza priva di mediazioni. Queste idee, posso dirlo semplicemente qui, dove non interessa la storia della evoluzione della mente di Hegel, queste idee si ritrovano 4 o 5 anni dopo nel frammento tubinghese preludio delle ultime prove della giovinezza alle soglie del primo abbozzo del sistema. Nel frammento di Tubinga del 1793, alla contrapposizione tra poesia greca e poesia moderna corrisponde quella tra religione soggettiva e religione oggettiva. La prima, la religione soggettiva, è religione vivente, qualcosa di individuale, mentre la religione oggettiva è astrazione. La prima è qualcosa di corrispondente al genio giovanile di un popolo che si sente ed esulta nella sua forza, si lancia con avidità su ogni cosa umana e non trascina le proprie catene nel rigido attaccamento alle convenzioni, come il genio che invecchia. Nel costruire l'idea di religione, non come dottrina ma come disposizione, per cui dottrina e forza sono fuse nel tessuto delle sensazioni umane, ritorna costante il confronto tra la religione soggettiva, viva ed efficace, e gli antichi dei della Grecia, ai cui altari i greci si avvicinavano recando gli amichevoli doni della natura, inghirlandati di fiori, vestiti coi colori della gioia, diffondendo letizia col loro aspetto aperto, invitante all'amicizia e all'amore. La religione soggettiva è corrispondente al genio giovanile di un popolo libero, sensibile, aperto, che viveva in città dalle grandi strade, in case con cortili aperti e scoperti, tra templi costruiti in uno stile bello e nobile, semplice come lo spirito dei greci, sublime come il Dio cui erano dedicati. La religione soggettiva è quella di uomini che sanno d'essere composti di sensibilità e ragione e quindi in grado di raggiungere la razionalità attraverso i sentimenti morali e gli impulsi non morali ai quali l'uomo non può sottrarsi, intessuti come sono alla nostra natura, cosicché, sebbene non siano morali e non scaturiscano dal rispetto per la legge, sono tuttavia degni di amore, ostacolano le inclinazioni cattive, promuovono il meglio dell'uomo. Accennando di corsa, ma con forza, a Kant, Hegel vede rientrare in questo carattere empirico, e sottolineo la parola empirico, che è incluso nella cerchia delle inclinazioni, anche il sentimento morale. Ed è importante che per lui il principio fondamentale del carattere empirico sia l'amore, che ha qualche analogia con la ragione, poiché l'amore ritrova se stesso negli altri, non è egoistico, vive, sente, è attivo, per così dire, negli altri, così come la ragione, in quanto principio di leggi universalmente valide, si riconosce in ogni essere razionale quale cittadina di un mondo intelligibile. Ovvero sia, l'assimilazione della religione soggettiva agli dei della Grecia prepara le successive teorizzazioni dell'amore come ciò che esclude ogni opposizione, come ciò che esclude la cattiva coscienza, la coscienza della separazione che, dice Hegel, quanto più andò crescendo, tanto più segnò il distacco degli dèi dagli uomini, al contrario dei tempi antichi nei quali gli dèi vagavano tra gli uomini. Nelle case, nei templi, nelle città costruite secondo un supremo ideale di bellezza. La bellezza dei greci, che è, come Hegel ha detto d'accordo con Schiller già nel 1788, presenza, legame intrinseco di essere e di vita, di sensibile e razionale, contro il dualismo di Kant, reale o presunto che sia, in ogni caso così presentato, al contrario di ciò che accade nella religione positiva del cristianesimo moderno, dove l'essente, l'unificazione, è solo una rappresentazione, è solo un pensato. E non a caso il frammento del 93, subito dopo queste affermazioni a cui ho alluso, riporta l'appunto la filosofia kantiana e la religione positiva. È nella rappresentazione che è posta l'unificazione. L'unificazione, dice Hegel, è solo unificazione di rappresentazione. La rappresentazione è un pensiero, ma il pensato non è un essente. Nel frammento di sistema del 1800, Hegel dirà: la più perfetta completezza è possibile presso popoli la cui vita è lacerata e divisa il meno possibile, cioè presso popoli felici, come i greci, presso i quali unificazione ed essere sono sinonimi. Ciò significa, io credo, che l'interpretazione dell'antico, suggerita da Hegel fino alle soglie di Jena, si riassume nell'enkaipan, unità totale, che, in altri termini, il bello in cui si esprime l'antico non è qualcosa di antropologico o l'attributo della natura, ma l'espressione della ontologica unità tra essenza e vita, tra sensibile e razionale, in contrasto con il dualismo kantiano, giacché anche il riferimento al carattere empirico a cui sopra ho fatto riferimento esprime questa unità, l'unità che il mondo moderno con la sua religione ha rotto. Il kantismo è questa religione moderna, il kantismo è questo mondo moderno che si presenta, così in Hegel come in Schiller, quale il mondo dell'esilio dalla bella patria della presenza, a cui Schiller come Hegel guardano con nostalgia. Però questa nostalgia non chiude il loro discorso, al contrario lo apre, perché rivela le aporie nascoste nella stessa idea della unità totale affermata nella immediatezza della bella natura, sintesi, anzi fusione di sensibile e razionale, che ormai la scissione ha rotto, ponendo drammaticamente il problema della riconciliazione, specie dopo la rivoluzione kantiana, la quale ha posto l'io come fondamento e di conseguenza ha trasformato la verità da dispiegamento della presenza nella oggettività costituita dai principi a priori dell'io trascendentale, ha trasformato la libertà da accordo dell'uomo con il dispiegamento della presenza nella incondizionatezza dell'io in quanto essere razionale. Per Hegel, delle tarde Vorlesungen über die Ästhetik, in questo punto fedeli ad antichi convincimenti, i risultati principali della critica kantiana non sono il punto di arrivo, ma quello di partenza per la vera comprensione del bello, la quale si può ottenere solo sorpassando, scrive, le manchevolezze del pensiero kantiano, in quanto sia l'apprensione più alta della vera unità di necessità e libertà, di particolare e universale, di sensibile e razionale. E a ciò, dice Hegel, si applicò Schiller, a cui va riconosciuto il grande merito di avere infranto la soggettività e l'astrazione kantiana del pensiero e di avere avviato il tentativo di andare oltre e di concepire concettualmente l'unità e la conciliazione come il vero. Più o meno negli stessi anni, un altro lettore di eccezione di Kant affrontava lo studio dell'antico non senza interesse per il confronto con il moderno. Nel gennaio 1793, Wilhelm Humboldt scrive Über das Studium des Altertums und des Griechischen insbesondere, nel quale sono presenti tesi e suggestioni di Schiller che egli ben conosceva e col quale intratteneva un intenso e assai importante carteggio. Nel motivare perché nell'antichità classica, specificamente greca, ricorrono le condizioni che rendono più fruttuosa ed evidente l'utilità della conoscenza dell'uomo per l'acquisizione della sua perfetta formazione, Bildung, Humboldt ricorda che presso i greci storia e poesia non erano distinte e quando lo furono assai tardi mai fu lecito allontanarsi da ciò che era in grado di fare impressione, cioè di colpire la fantasia, come può avvenire solo superbamente nella poesia. Ancora, nei greci, nazione giovane, assai prossima al momento delle origini, un tema, questo delle origini, come si sa, determinante per la scoperta moderna della storicità da Vico in avanti, nei greci assai forte si conservava l'incidenza della sensibilità nella definizione dell'idea di bello, sintesi di spiritualità e corposità. Non basta. Nei greci, quasi naturalmente, per ragioni e con conseguenze anche politiche e sociali, come Humboldt sottolinea, sussisteva l'armonia più nobile tra le parti e il tutto, in grado di produrre molteplicità e unità, quale grande tendenza a formare così l'uomo rappresentato nella sua completezza sul fondamento del concetto di bello. Esplicito è anche in Humboldt il confronto tra questo mondo e il mondo moderno, effettuato in due punti del discorso diversamente importanti. Nel primo, nel paragrafo 21, parlando della filosofia come d'un campo in cui la cultura greca conserva le forti tracce della individualità del popolo che la professa, Humboldt sente il bisogno di volgere lo sguardo alle nazioni moderne, come dice. E questo sguardo gli fa caratterizzare i popoli moderni per lingua, filosofia, poesia e storia come il regno dell'astrazione e dell'universale, di contro alla nativa semplicità originaria dei greci. Del resto, già in una lettera del 3 settembre 1792 all'amico Brinkmann, aveva detto che i greci sono ben più prossimi alla natura che all'arte e alla cultura, ragion per cui studiandoli si studia una nazione, non si studiano dei libri, si studiano degli uomini. Nel secondo passaggio dello scritto del 93, nel paragrafo 33, l'argomentazione è approfondita e specificata. In un tempo in cui, per il convergere di innumerevoli circostanze, l'attenzione è più rivolta alle cose che agli uomini, più alle masse che agli individui, più al valore e alle utilità, alle utilità esteriori che alla bellezza e al godimento interiori. In un tempo dove una progredita e varia civiltà ha portato molto lontano dalla primitiva semplicità, non può non essere salutare guardare indietro a nazioni presso le quali era vero proprio il contrario speculare. Sembra dunque che Humboldt segua fedelmente Schiller, anch'egli utilizzando quella lirica che annovera tra i capolavori dell'arte poetica tedesca, allude agli dei della Grecia, nella quale il poeta si pone nell'ottica dell'arte, del bello sensibile, del bello morale, esprimendo il secondo mediante il primo. E confrontando da questa prospettiva la religione degli antichi e la religione dei moderni nel loro influsso su moralità e felicità. Però sbaglierebbe chi si arrestasse a queste analogie. Proprio nella tesi centrale, cioè la necessità della conoscenza dell'uomo, a cui lo studio dei Greci dà un contributo determinante, il contrasto con Schiller emerge e fu del resto rilevato dallo stesso Schiller in una annotazione assai importante che Schiller appose al manoscritto del 93 che l'amico aveva inviato a lui come al suo maestro Friedrich August Wolff. È l'annotazione che non a caso riprende una tesi accennata da Schiller nella prolusione jenense del 1789, Was heißt und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte, cioè lo scritto che, utilizzando gli opuscoli kantiani di filosofia della storia, cerca di superare le antinomie nascoste nelle tesi ancora in latente polemica, nelle tesi da lui enunciate, ancora in latente polemica con il dualismo kantiano della critica della ragion pratica. A Humboldt, che ripone il significato della conoscenza dell'uomo al fine della più alta, nobile e proporzionata formazione spirituale, nello sforzo di unificare la singolarità nell'intero e nell'unità, specificando però che questo sforzo va considerato come energia, energeia degli uomini che agiscono e non all'utilità dell'opera compiuta, ergon, a Humboldt, il quale, insistendo sull'azione più che sul prodotto, rompe lo schema neo-umanistico dell'antico come modello e di conseguenza problematicizza la ricerca dell'intero, Schiller oppone la deduzione kantiana della storia da distinguere, come dice in questo appunto, in tre fasi. Quella dei Greci o della natura, in cui l'oggetto ci sta dinanzi intero, ma confuso ed incerto. Quello attuale, quello del presente o della riflessione, in cui l'oggetto è diviso e distinto. Quello del futuro o del sentimento, in cui l'oggetto è intero e unificato, ma non più confuso e oscuro. Solo quando questo terzo tempo della storia dell'umanità sarà arrivato, non si desidererà più che i Greci ritornino, scrive Schiller. Quello che Schiller, il quale nel frattempo tra l'88 e il 93 ha scritto o sta scrivendo i saggi sull'arte tragica del 92, sul sublime, sul patetico, su grazia e dignità del 93, quello che Schiller esprime nella annotazione sopra ricordata è il tentativo di criticare Kant con Kant per assicurare la comunicazione, o meglio la connessione, tra il bello come espressione immediata della intatta natura felice e la storia. Schiller aveva letto ed era rimasto non poco perplesso la prima critica, nella prima e nella seconda edizione, e la seconda critica kantiana. Negli artisti del 1789 aveva respinto la subordinazione kantiana del sensibile allo spirituale, giacché, dice, il cuore che la bellezza accompagna con dolce grida, disdegna l'umiliante imposizione dei doveri. Il 29 agosto 1789, mentre è intento alle lezioni di storia dalla cattedra dell'università jenense, scrive all'amico Kerner, che lo ha iniziato allo studio della filosofia di Kant: mi sembra quasi certo che continuerò a leggere Kant e finirò con lo studiarlo. E si riferisce in special modo alle pagine kantiane di filosofia della storia. Nel 1790, quando Kant pubblica la Critique der Urteilskraft, Schiller, come Goethe, ne è entusiasta. E sempre a Körner, il 3 marzo 1791, scrive: indovina che cosa sto leggendo e studiando, niente meno Kant. La sua critica del giudizio che mi sono procurata mi attrae per la ricchezza del suo spirito e la luminosità del suo contenuto, e ha destato in me il più grande desiderio di penetrare poco a poco nella sua filosofia. La terza critica gli chiarisce cioè ciò che aveva trovato ostico nella prima, e lo aiuta nel rifiuto definitivo e consapevole di ogni trennung tra le due nature dell'uomo, razionale e sensibile, facendolo passare dalla kantiana libertà dal sensibile alla sua teorizzazione della libertà nel sensibile, tesi che, superando il dualismo, gli appare già suggerita dalla filosofia della storia di Kant. E seguendo specialmente le idee sulla storia universale dal punto di vista cosmopolitico e le considerazioni sull'origine della storia di Kant, seguendo questi scritti, sottolinea il bisogno vigoroso di unità realizzato attraverso la insocievole socievolezza che salda istinto naturale e ragione, affidando kantianamente, pur con la preoccupazione di non violentare i fatti, questa unificazione allo spirito filosofico, e gli dice che introduce nel corso degli avvenimenti una finalità razionale e nella storia universale un principio teleologico che, nel rispetto dell'uniformità e dell'unità inalterabile delle leggi e del sentimento umano, sottolineo il riferimento all'unità e all'uniformità, consente e giustifica il ricorso dell'antichità e il convergere del moderno nella totalità della catena dei fatti. In tal modo, con una drasticità che Kant non avrebbe perseguito, perché non avrebbe acconsentito, come sostiene Schiller, che la storia universale parte da un principio nettamente opposto a quello che regge la vita, cioè la successione reale dei fatti, dice Schiller, va dall'origine prima delle cose all'andamento più recente, la storia universale rimonta dagli aspetti più vicini del mondo alle origini prime delle cose. In tal modo, dicevo, con una drasticità che Kant non avrebbe condiviso, Schiller ritiene di poter salvare la storia, ma perde la libertà dell'individuo saldato, senza che egli stesso se ne accorga, alla specie. L'uomo si trasforma e scompare dalla scena del mondo. Solo la storia rimane immutata sulla scena, ma levatrice eterna di tutte le nazioni e di tutti i tempi. Siamo così al principio che avrebbe ispirato la filosofia della storia di Hegel, il quale esplicitamente lo riprese con consenso, secondo cui la storia del mondo è il giudizio del mondo. E Schiller può concludere, riconoscendo compiaciuto e fiducioso, che alla lenta gestazione della nostra civiltà, di questo secolo dell'uomo, si badi dell'uomo, tutti i secoli hanno dato, senza saperlo né volerlo, la loro opera. Anche Humboldt aveva letto Kant nel 1788-89 e poi nel 1790, rilevando una disarmonia tra le prime due critiche, e successivamente avvicinandosi più che alla parte pratica, alla parte teoretica della filosofia kantiana, di cui nello scritto sulla religione del 1788-90 coglieva pienamente la dimensione critica e negativa della Vernunft, vista sempre più nettamente come ragione regolatrice e scrutatrice, per definirne il ruolo di forza realizzatrice posta tra sensibilità e intelletto. Più tardi, dopo la comparizione della terza critica, anche Humboldt tornò su Kant, rileggendolo per intero, chiarendo i dubbi della prima critica attraverso la terza, individuando nel kantismo una chiave filosofica per costruire, anche al di là di Kant, un piano sistematico, come dice, per la determinazione delle scienze dell'uomo. Sono due lettere a Kerner del 27 ottobre e del 19 novembre 1793. Però le conclusioni di questo rinnovato studio integrale di Kant sono, al di là di punti specifici, assai diverse da quelle che ne traevano Schiller e poco dopo Hegel, come risulta da alcune lettere del 1795 con Schelling. Puntando infatti sulla idea di forza e riportandovi la ragione, la lettura di Humboldt, anche attraverso il costante interesse per il linguaggio, che oramai sempre più nettamente egli individua come la chiave per la comprensione dell'umano, l'interesse di Humboldt si indirizzava a definire la rivoluzione di Kant come spostamento della filosofia da ricerca dell'essere a ricerca del senso, in coerenza con la scoperta del soggetto quale punto di partenza per comprendere e orientarsi criticamente nel mondo. Il valore rivoluzionario della avviata trasformazione della filosofia da ontologia in antropologia era cosa di cui Humboldt fu ben consapevole, tanto che ancora nel 1830, riflettendo sui suoi rapporti con Schiller rispetto a Kant e ai problemi del kantismo, affermava che il filosofo delle critiche aveva compiuto una riforma quale la storia della filosofia tutta intera non offre di simile. Non meraviglia perciò che nel gennaio del 1794, scrivendo a Wolf, Humboldt ripete anche a lui di avere studiato ancora una volta tutte le nuove opere di Kant dopo la critica della ragion pura, questa compresa, e di avere in testa le idee filosofiche che devono introdurlo nei suoi lavori sui greci. Quando perciò, nello studio dell'antichità, applica i principi della ragione pratica e della critica del giudizio per dimostrare quanto sia indispensabile al filosofo e all'artista la conoscenza delle diverse forze intellettuali, percettive, morali, umane, delle modificazioni che provocano l'una sull'altra, dei modi possibili dei loro rapporti giusti o sbagliati, del rapporto delle circostanze esterne rispetto alle forze intellettuali, ritiene che ciò sia assicurato attraverso lo studio dell'antico dalla conoscenza stessa degli antichi, ovvero, come dice, della umanità nella antichità. E quel che è più, considera questo studio animato e caratterizzato non dalla indagine filosofica sull'uomo in generale, ma dalla indagine delle nazioni, la greca in special modo, storicamente definite. Tanto che si tratta, come egli dice con immagine da sé sola indicativa di una precisa intenzionalità teorica e storiografica, si tratta di scrivere la biografia delle nazioni. Perciò anche questo scritto, che è prossimo alle tesi di Schiller e del giovane Hegel, costruisce l'immagine dell'antichità, riconosciuta nei suoi elementi di eccellenza, non tanto attraverso l'idea del bello, quanto attraverso l'attenzione per la schiavitù, a cui è dedicato un paragrafo, per la Costituzione e l'ordinamento politico, a cui è dedicato un altro paragrafo, per la religione, per la divisione in più staterelli, per la dimensione nazionale, tutti temi di vari paragrafi, ossia elementi che possono essere accertati e valutati storicamente. Sta in ciò, accanto alla dimensione filosofica, il valore ermeneutico di quello che Humboldt chiama lo studio dei resti dell'antichità, che è, con assonanza wolfiana, studio ausiliario alle altre scienze dell'uomo. Ciò che non va dimenticato e che specifica rispetto a Schiller e a Hegel il carattere non metafisico di questo primo discorso pur filosofico di Humboldt sull'antico è che, accanto alla lucidissima lettura di Kant, nella quale è già in nuce una trasformazione della idea stessa di filosofia, sta la mediazione esercitata dallo studio filologico praticato da Humboldt direttamente con le tradizioni di Pindaro e di Eschilo, di Platone e Tucidide, e attraverso gli insegnamenti di Heine, di cui seguì i corsi a Gottinga tra il 1788 e il 1789, e di Wolf, conosciuto nel 1792 a Halle. Qui ritengo inutile leggere alcune pagine che, richiamando ben noti lavori, mirano a ricordare qual è il contributo che Heine e Wolf hanno dato alla costituzione della filologia come scienza storica, i rapporti con la filosofia. Mi limiterò a ricordare che nella Darstellung di Wolf del 1807 sono riportate pagine dello scritto di Humboldt del 1793. Wolf dice: pensieri sparsi nella corrispondenza che ho ottenuto con un dotto, e porta la data del 1788, una corrispondenza che è un poco successiva. Nel 1788 Humboldt aveva 21 anni. Questa che ho chiamato la mediazione filologica determina, io credo, fin dalle origini il carattere della ricerca di Humboldt sull'antico e il suo far centro sull'ermeneutica, per cui non si tratta schillerianamente di dedurre la storia dalla filosofia kantiana, ma di comprenderla utilizzando la scoperta kantiana e puntando non sulla contemplazione Anschauen, bensì sulla ricerca Aufsuchen, il cui criterio ermeneutico è già enunciato, anticipando formulazioni successive, in un paragrafo dello scritto del 93, dove si legge: chi vuole comprendere deve sempre necessariamente farsi in certa misura simile a ciò che vuole comprendere. Perciò credo che vada anche sottolineato, per definire il lavoro di Humboldt, come filosofo della storia, filosofo del linguaggio, la scelta della parola che Humboldt utilizza per definire lo studio dell'antichità, appunto studium, non più Nachahmung e nemmeno Wissenschaft. L'approccio scientifico, perché di scienza si tratta, sia sulla scorta della filologia, sia sulla scorta della riflessione filosofica, si affida per Humboldt allo studium, che significa ricerca della cultura dell'uomo, e non più alla ricostruzione di modelli teorici, siano essi il prodotto delle idealizzazioni tipologiche del neoclassicismo winckelmanniano o delle concettualizzazioni logiche, Wissenschaft der Logik, Wissenschaft Lehre, delle filosofie idealistiche, dalle quali è lontana l'antropologia humboldtiana, non rivolta rivolta a pensare la vita, ma al mondo della vita. Dopo lo scritto del 1793, per 13 anni o pressappoco, Humboldt non tornò più specificamente sui greci e sull'antico, pur se non abbandonò mai né gli uni né l'altro nelle riflessioni di antropologia, di estetica, di linguistica e filosofia del linguaggio, nelle quali, secondo le linee di un compatto quanto problematico programma di ricerca, proseguì le indagini intorno al tema della Bildung, che era quello stesso esaminato nello Studium del 1793. Solo nel 1806-7 Humboldt tematicamente tornò sull'antico con tre scritti tutti assai rilevanti. Più o meno contemporaneamente, nella filosofia dello spirito jenense, la cosiddetta filosofia dello spirito jenense del 1805-6, anche Hegel tornò sui greci, in un contesto sistematico assai significativo che nel formale capovolgimento delle tesi della giovinezza, a mio giudizio sostanzialmente le conferma in ciò che esse avevano consentito di conquistare quanto all'opzione teorica fondamentale di Hegel, ossia la definizione della filosofia come discorso sulla totalità e l'unità dell'essere. Ciò non significa che debbano essere sottovalutate le novità del ritorno in ciò che esse comportano quanto a coscienza del progresso dello spirito. Tutt'altro. Nel terzo capitolo, intitolato Costituzione della Jener Real Philosophie, Hegel affronta il significato dello Stato e del diritto non più attraverso la natura etica, identificata immediatamente con la Sittlichkeit sostanziale della città greca, ma attraverso il concetto, il cui movimento penetra la sostanza etica. Dice Hegel, lo Stato, in quanto ricchezza, è l'essere tolto, tanto dell'esserci isolato quanto dell'insé nell'esserci e del puro essere in sé della persona. Cioè lo Stato assicura la totalità, ma non più come unità immediata, bensì come unità dell'individualità e dell'universalità, la quale, questa unità, c'è ora, dice, nel duplice modo estremo dell'universale, che è egualmente individualità, il governo dello Stato, individualità che ha come fine l'universale in quanto tale, e l'altro estremo che ha come fine il singolo. Dinanzi a questa situazione, come si pone la bella e felice libertà dei greci che è stata ed è tanto invidiata? Presso i greci, risponde Hegel, il popolo è dissolto nei cittadini e nello stesso tempo è un unico individuo. Il governo, esso sta in interazione solo con sé. L'alienazione della singolarità della volontà è immediata conservazione di essa stessa. È il regno dell'eticità, ognuno è costume, ethos, sit, immediatamente reso con l'universale. Ognuno si sa immediatamente come universale. Però, ed ecco la novità, tutto ciò avviene nel rinunciare alla particolarità senza sapere questa come tale, come questo sé, come l'essenza. Perciò, dice Hegel, rispetto ai greci è necessaria un'astrazione più alta, una più grande opposizione e cultura, uno spirito più profondo. In altri termini, l'immediatezza non serve più perché la totalità che essa assicura non ha coscienza di sé, il che acquista solo attraverso la scissione, solo attraverso ciò che si oppone alla bella e felice libertà della immediatezza. La scissione più alta, dice Hegel, è dunque che ognuno ritorna in sé, ognuno sa il suo sé come tale, come l'essenza, perviene a questa ostinatezza di essere separato dall'universale esistente e tuttavia di essere assoluto, di possedere immediatamente il suo assoluto nel suo sapere. Egli, in quanto singolo, lascia libero l'universale, ha piena indipendenza in sé, rinuncia alla sua realtà, vale per sé solo nel suo sapere. E questo, aggiunge Hegel senza esitazione, è il principio superiore dell'età moderna che gli antichi non conoscevano, che Platone non conosceva. Ciò significa che Hegel non ha più nostalgia per la natura, l'immediato, che deve essere rappresentata come malvagia. Si potrebbe osservare che Hegel ha conquistato la storia e sul piano della storia ha inteso l'importanza della figura della coscienza infelice, che è il tema centrale dell'ormai prossima fenomenologia dello spirito. E la coscienza infelice, come consentono di dire insieme con la fenomenologia le lezioni di storia della filosofia, le quali, è bene non dimenticarlo, utilizzano un canovaccio di un corso perduto di storia della filosofia professato proprio a Jena nel semestre invernale 1805-6, la coscienza infelice corrisponde al momento precedente la riconciliazione, al momento della scissione, a sua volta espressione sul piano storico della decadenza del mondo antico nei suoi rapporti con il mondo cristiano moderno. La Repubblica Platonica è, dice Hegel, come lo stato dei lacedemoni, questo scomparire della individualità consapevole di sé. E al margine di questa osservazione aggiunge, Platone ha compreso nel suo interno lo stato del suo tempo, ma questo stato è tramontato, perché esso era privo del principio dell'assoluta singolarità. Con questo principio moderno è perduta la libertà esteriore, reale degli individui nel loro esserci immediato, ma è conquistata la loro libertà interiore, la libertà del pensiero. Ecco perché, come dicevo, Hegel non rinnega, a mio giudizio, ciò che nella giovinezza, attraverso i greci, che egli definisce gli uomini più gravi e insieme più gioiosi, aveva conquistato. Ciò che non sente più è la nostalgia struggente per i greci, che non sono più un modello, anche se sorpassati restano pur sempre un momento insorpassabile, perché indispensabile nel progresso dello spirito. L'immediatezza è bella, ma non è fondante, dice Hegel, perché se lo spirito è soddisfatto nel mondo, allora non è lo spirito che si solleva al di sopra del suo esserci. Esso vi deve essere scosso e vi è scosso dalla guerra e dalla necessità e si rifugia dall'esserci nel pensiero. La scissione, cioè la scossa della storia, definisce la storia del progresso dello spirito che si realizza nel pensiero della sua totalità. La rottura della bella immediatezza dei greci è la condizione del processo, i cui momenti sono la riconciliazione attraverso l'arte, la religione, la filosofia, cioè la triade dello spirito assoluto che già la Jener Real Philosophie presenta nella loro sistematicità, dando il senso di questa storia, della storia che Hegel ha raggiunto, perdendo il sentimento della nostalgia verso un esemplare, l'esemplare passato greco, e conquistando la importanza critica della drammatica coscienza infelice della scissione. L'io, scrive concludendo questo passo, è questa inseparabile connessione del singolo e dell'universale, e della singolarità in quanto universale, totale natura, e dell'universale, dell'essenzialità, nella sua totalità, del pensiero nella sua totalità. L'immediatezza dello spirito è lo spirito del popolo, un concetto che dunque Hegel raggiunge con riferimento ai greci. La religione è lo spirito pensante, che però non pensa se stesso, non se stesso, per cui non è l'eguaglianza con se stesso, non è l'immediatezza. Questo sapere della filosofia è l'immediatezza ripristinata. Essa stessa, la filosofia è la forma della mediazione del concetto come immediatezza, è in generale lo spirito che si sa, e questo è coscienza. Esso è, la sua quieta opera d'arte, l'universo esistente, la storia del mondo. Siamo giunti alla conclusione di Hegel, a mio giudizio mai più abbandonata, anche nell'approfondimento del sistema. La filosofia è un uomo in generale, che perviene al suo principio attraverso la coscienza immediata che è appunto lo scisso. In quanto è questa creazione dell'uomo e del mondo, essa è l'altro dal tempo. Non è un altro tempo, bensì l'eternità, il pensiero del tempo. Ma allora si può dire la scissione è l'eterno cercare, l'eterno creare, cioè il creare del concetto dello spirito. L'universo è sì immediatamente libero dello spirito, ma deve ritornare nello spirito, o piuttosto il suo fare è il movimento, questo movimento dello spirito che ripristina l'unità, non più nella forma della immediatezza. Lo spirito è, dice Hegel, la storia del mondo. Dunque, il ritorno di Hegel sui greci abbandona la nostalgia perché scopre l'eterno della storia che è lo spirito, in quanto lo spirito è Dio, l'assoluta essenza trascendente diventata uomo, come Hegel scrive. Il ritorno sui greci, nella consapevolezza della scissione che scuote la bella immediatezza degli antichi, fortifica la presenzialità che dell'antico era già negli scritti giovanili il carattere fondamentale e scopre l'eterno presente della storia del mondo. Siamo alla teorizzazione di una storia dell'universale che è poi tutt'altro che una storia. Tutt'altro il ritorno di Humboldt, quando anch'egli nel 1806-7 riprende in esame lo studium dell'antichità, cui in realtà mai aveva cessato di pensare, a cagione della motivazione più profonda del suo interesse, che era la definizione della individualità dell'uomo in relazione alla universalità della sua formazione e del suo perfezionamento in rapporto con gli altri. Perciò il sottofondo dello studio dell'antico resta il confronto con il moderno, che viene accentuato nel ritorno sul vecchio tema, nella specificità della tematizzazione del 6-7, in ragione della nuova motivazione che spinge alla rinnovata riflessione. Penso allo scoramento per il crollo della Prussia a Jena sotto i colpi del cesarismo napoleonico. Humboldt lo dice in una lettera all'amico Schweighäuser del 4 novembre 1807 e lo scrive chiaramente nello schema del primo capitolo della incompiuta storia della decadenza e caduta dei liberi stati greci del 1807, nello schema dove sottolinea come il richiamo della condizione libera e bella dei greci aiuti a vincere la pressione del tempo sull'animo schiacciato dall'attuale situazione soffocante e angusta. Il che chiarisce i ripetuti confronti tra la Grecia e la Germania della storia della decadenza e caduta degli stati greci, specialmente lì dove viene affermata l'innegabile analogia riscontrabile nella lingua, nella molteplicità delle interne tensioni, nella semplicità del senso, nella costituzione federalistica, nei destini più recenti della nazione tedesca. Non è perciò un caso che se nel 1793 il confronto con i greci e il loro studio si indirizza prevalentemente a ciò che era in loro caratteristico in quanto originario, ora nel 1806-7 l'attenzione si rivolge alla fine, alla decadenza e caduta del mondo antico, con una più diretta preoccupazione per il significato di Roma tra grecità e modernità. Quando anche in Humboldt, che bene e sollecitamente aveva avvertito la svolta e la novità degli anni che gli toccava di vivere, riflettendo nel 1796-97 sul carattere del secolo XVIII, uno scritto di straordinaria importanza quando anche in Humboldt il mondo della scissione urgeva con la forza delle sue lotte e lacerazioni storicamente avvertite e verificate. Perciò, in singolare parallelismo con lo Hegel jenense, anche Humboldt guarda i greci nella loro decadenza e ne avverte i limiti accanto alla grandezza. Però non smette, a differenza di Hegel, il sentimento della nostalgia, che tuttavia non ha più i colori del classicismo winckelmanniano. Infatti la nostalgia per la perfezione perduta non si presenta come ritorno impossibile e neppure come imitazione destinata a fare saltare fuori dalla storia con scelta metafisica. Al contrario, il mondo greco deve essere, dice Humboldt, conosciuto storicamente, proprio perché è un ideale, il simbolo dell'umanità, proprio per la sua e nella sua specificità, inimitabilità e irripetibilità. Lo studio e il confronto con l'antico, anche quando sia non tanto pura e semplice storia, come dice Humboldt, quanto riflessione sulla storia, è sorretto dal convincimento, rigorosamente storico, che è un triste ma anche un nobile privilegio di ciò che è vivente il fatto di non rinascere mai più. Ciò che è passato per sempre. In quanto ideale, l'antichità greca è sì, anche in Humboldt, introduzione alla storia universale, ma non intesa questa come il luogo dell'eterna presenza della hegeliana storia del mondo, bensì come il movimento della umanità nella sua tensione a formarsi e realizzarsi integralmente. Più tardi, nel 1814, Humboldt lo dice chiaramente, chiarendo e sviluppando idee già presenti letteralmente nelle pagine del 1806-7. La storia universale, scrive, nella lacerata esistenza terrena è l'unica soluzione possibile del problema di come la pienezza e varietà della forza presente nell'umanità diventi un poco per volta realtà. Essa non agisce nel senso di un perfezionamento continuamente progrediente nel segmento di spazio, tempo ed esistenza a noi assegnato, e neppure nel senso del perfezionamento promesso e da noi dipendente della civiltà, che in realtà non si può chiamare tale e che nelle trasformazioni non fa che scavarsi da sé la fossa. Tutto il fluttuare caotico, essendo l'uomo una natura intellettuale, si collega con lo spirito e con l'idea, ha successo o fallisce, si riproduce in determinate forme tramandate di nazione in nazione, si trasforma, si amplia o si restringe, si affina o si determina. Poi, improvvisamente, ciò che di più nobile è stato prodotto viene inghiottito dalla natura e dalla barbarie. È evidente che il destino non rispetta i prodotti dello spirito, e questa è la spietatezza e la crudeltà della storia universale, la quale non riconosce alcun fine ai destini umani. I destini del genere umano, scrive Humboldt, rotolano via come i fiumi scorrono dal monte al mare. Perciò non le intenzioni almanaccate da pochi millenni e attribuite ad un essere estraneo, viene fatto di chiedersi se non sia un riferimento al Dio di Hegel, un essere estraneo poco sentito e ancor meno conosciuto, ha la forza della natura e della umanità. Si deve conoscere nella storia universale. Però, poiché il tutto è riconoscibile soltanto nel singolo, si devono studiare le nazioni e gli individui. Ed è ciò che Humboldt fa quando nel 1806-7 studia l'individualità, tornando sui greci, un popolo raffinato che improvvisamente decadde per le ragioni stesse della sua raffinatezza, vittima di quello che Humboldt chiama l'irritante destino, che sempre accade nella storia, nella natura vivente e in quella priva di vita. I popoli barbari hanno vinto quasi sempre i più civili. L'uomo più rozzo domina e schiavizza il più fine. La forza spirituale, il più delle volte, inutilmente si oppone alla forza brutale e deve rinchiudersi nell'interiorità per cercarvi, se non cade nella disperazione, la libertà perduta nell'esteriorità. In Latium undellas, oder Betrachtungen über das klassische Altertum del 1806, attraverso sottili notazioni su arte, religione, poesia e filosofia, usi e costumi, in costante raffronto con il grande tema della libertà, Humboldt definisce il significato della individualità grazie al valore della individualità greca. Convinto con Goethe, individuum est ineffabile, che l'individualità vera e propria rimane sempre nascosta, inspiegabile, incomprensibile, Humboldt non ritiene, ed è affermazione che conferma, io credo, la profonda novità della sua riflessione antiontologica, ritiene che l'individuo sia una sostanza, non ritiene che l'individuo sia una sostanza necessaria, una realtà essenziale. Nulla di vivente, scrive, e perciò nessuna forza di alcun tipo può essere considerato come una sostanza che riposi su se stessa e in cui riposi una qualunque altra cosa. Si tratta di una energia che dipende unicamente e soltanto dall'azione compiuta in ogni momento. L'individualità è la conseguenza di un tendere positivamente diveniente attraverso la limitazione, la quale, costitutiva della nostra ragione, conduce a ciò che è oltre l'individuo, ovvero all'ideale, il quale, rifiutato il ricorso accogliente a sostanze immobili, è soltanto, questo ideale, un'immagine che può avere l'universalità dell'idea proprio per il fatto che gli manca la determinatezza dell'individuale. Fra idea e vita vi è pertanto una distanza eterna, ma anche una competizione eterna. Nei greci l'individualità, intesa come determinazione dell'energia manifestantesi nel particolare, e il carattere, intesa come la forma manifestata nelle sue qualità, ovvero come l'insieme delle creazioni oggettivate dalla forza, nei greci tutto ciò significa fondamentalmente tre cose: che il lavoro per conseguire qualcosa è più importante del risultato che si raggiunge; secondo, che lo sforzo in quanto tensione impegna insieme la natura sensibile e la natura spirituale dell'uomo, secondo un'idea nella quale ritorna il kantismo originale o addirittura eterodosso di Humboldt. Terzo, che le due dimensioni dell'umano, vitale e ideale, sensibile e spirituale, reale e razionale, sono legate attraverso il concetto di organizzazione, che significa da un lato rapporto tra le parti e il tutto e dall'altro rapporto tra le parti o individui, grazie a quella che Humboldt chiama la gioia della socialità, giacché la composizione del contrasto tra i due termini avviene, senza annullare l'uno o l'altro, attraverso la simbolizzazione, cioè in una forma in cui l'universale entra come particolare e il particolare si accresce ad universale. Ciò significa che un altro elemento è determinante per definire l'individualità, e quella dei greci in particolare lo mostra assai bene, ed è il linguaggio, ovvero sia ciò a cui Humboldt ha già assegnato e sempre più assegnerà la funzione fondante una volta respinta la scelta ontologica. Perché il linguaggio è energia, forza formatrice e non forza compiuta, non un dato da scoprire o riscoprire nelle sue manifestazioni. Già trattato di sfuggita, nel paragrafo 18 dello scritto del 1793, in quello del 1806-7 il linguaggio è più ampiamente considerato come quel carattere che non può essere visto quale uno degli aspetti di un popolo o di una nazione, perché a differenza di tutti gli altri è ciò che fa la nazione, è la nazione. La parola è un segno finché è usata per una cosa o un concetto. ma secondo la sua formazione e il suo effetto è una vera e propria autonoma essenza, un individuo. La somma di tutte le parole, la lingua, è un mondo che è nel mezzo fra quello che appare esternamente e quello che agisce in noi. In altri termini, il linguaggio è un universo mediatore che garantisce la socievolezza e l'alterità degli individui nel loro essere non monadi incomunicanti, ma soggetti viventi e perché viventi relazionanti in sé e con gli altri. Di tutto ciò il mondo greco ha fornito esempio insuperabile ed è perciò un modello irraggiungibile. Ma si deve da ciò dedurre la indiscussa superiorità del mondo greco sul moderno? Non è dubbio che per Humboldt gli antichi sono modelli irraggiungibili dell'umanità, non in sé, ma come fenomeno vivente e individuale. Il che, mi sembra, già cerca di definire una dimensione storica e non astratta di questo ideale superiore. Non sfugge infatti a Humboldt che la esemplarità degli antichi, affidata alla felice unificazione conseguita facilmente e immediatamente, segue un percorso che stimola alla imitazione, ma non incute il timore di ciò che è tanto superiore da schiacciare l'osservatore ammirato. Sono assai importanti le specificazioni che Humboldt fornisce delle sue idee quando osserva che l'assoluto, cioè il proprium degli antichi, non può non essere fondato per via astratta, mentre il reale va cercato per altre vie e la convivenza etica degli uomini va ottenuta con mezzi che a prima vista si oppongono alla formazione dell'individuo, in quanto legati ai singoli momenti dello sforzo per la conquista dell'armonia e dell'intero. Non meraviglia perciò la conclusione che viene tratta. In questo i moderni, ovvero sia i cittadini del mondo della realtà, possono superare gli antichi. L'unificazione dopo la scissione, più difficile ma anche più grande di quella precedente alla scissione, è riservata al mondo moderno. L'argomentazione è ampliata nelle pagine della storia della caduta dei liberi stati greci, di cui quella che ho citata è lo schema. Infatti, operata la distinzione tra antico e moderno, nel senso che l'antico è il mondo dell'arte, il moderno quello della realtà. Una coppia che nello schema già citato sta per classicismo antico e romanticismo moderno, Humboldt precisa che la realtà non è per nulla più ignobile dell'arte, che il rispetto dell'arte è il segno di un'epoca che si eleva, ma il rispetto della realtà è la connotazione di un'epoca che si è elevata ancora più in alto. Già che in essa non viene meno la tensione verso l'assoluto, solo che qui la conquista è il prodotto della passione, un termine, dice Humboldt, che anche altrove dedica considerazioni assai rilevanti a questo tema, da non sprecare per definire gli affetti subordinati dell'odio o dell'amore e simili. Si potrebbe addirittura dire che solo dove è conquista e quindi sforzo e perciò passione, è concepibile vera tensione, perché solo qui l'individuo è scisso dalla specie, la specie dall'universo e l'assoluto viene cercato nel profondo dell'io senza conoscere via d'uscita per il contrasto in cui il singolo sta con l'assoluto, salvo la rinuncia disperata ad ogni affinamento oppure la completa risoluzione dell'idea della grazia e della conciliazione per mezzo del miracolo. Di conseguenza, osserva Humboldt, solo nei tempi moderni la cultura ha preso la direzione dell'individualità, dopo il cristianesimo, con il tentativo mai portato a termine di unificare tutte le nazioni, il che ha spezzato tutti i legami nazionali. Ne discende l'insuperabile difficoltà della contrapposizione tra antico e moderno e la impossibilità di un terzo genere che unifichi i due. Anche a volere ammettere, il che a Humboldt non è concesso dalla sua teoria della storia e dalla sua idea di storia universale, una perfettibilità infinita. Ciò che è sommo non solo simbolicamente come presso i greci, ma nella realtà come i moderni, può apparire soltanto parzialmente, mentre come intero può soltanto essere intuito e immaginato dal pensiero. Affermazione dove ancora una volta la totalità intesa quale prodotto di un'aspirazione e non quale sostanza necessaria, quale tensione normativa, dover essere e non essere, si presenta in termini non ontologici. Con ciò, la riflessione di Humboldt sull'antico può concludersi, almeno nel senso che lo riporta alla storia, la quale assume qui tratti anticipatamente antirenchiani, perché non è attratta dall'accertamento delle cose come sono accadute. Dice Humboldt, non desideriamo sapere come questo o quella massa di uomini fu assalita o assalì, vinse o perse, bensì dal desiderio di vedere nella esperienza, e vorrei sottolineare questo riferimento, che cosa può il destino sull'uomo e ancor più l'uomo sul destino. E però questa storia, che è attività creativa, non è una storia filosofica del mondo di nessun tipo. Vuoi kantiano, cioè risolvente l'individuo nella specie, vuoi herderiana, e cioè fondata sulla prevalenza delle cause finali sulle cause motrici, vuoi hegeliana, e cioè luogo della rappresentazione del tutto nel manifestarsi progressivo dello spirito che è eternamente presso di sé. La storia di Humboldt, il quale lo dice non a caso nelle pagine sull'antico, va a scandagliare il fondo di ciò che è ancora sconosciuto, a produrre ciò che non si è ancora visto, ossia porta il reale sulla soglia del possibile, senza recidere questo hegelianamente come un'esistenza accidentale che può non essere allo stesso modo che è, secondo le affermazioni del famoso paragrafo 6 dell'enciclopedia. Alla luce di queste idee, il raffronto tra antico e moderno trova un elemento importante di manifestazione nell'esame della decadenza, come momento non solo più attraente di quello della fioritura, come dice Hegel, ma che consente anche di abbracciare con un solo sguardo la storia vecchia e la storia nuova, specificando, io credo, il senso politico, per dir così, dello studio dell'antico, non a caso, nell'intreccio tra etica e politica, Humboldt trova le ragioni della decadenza della civiltà greca. Le ragioni della caduta del mondo antico, e va ricordato che Humboldt si sofferma pressoché esclusivamente sui greci, ritenendo qui, come dice, che Roma partecipi dell'antichità solo nella misura in cui è assimilabile alla Grecia, la quale infonde l'anima nella Costituzione romana, le ragioni della caduta del mondo antico vanno cercate nella natura troppo nobile, delicata, libera, umana del carattere greco, inadatto a fondare una costituzione politica necessariamente limitatrice della individualità. Ciò non significa che nei greci esistesse la frattura tra uomo e cittadino. Già nello studium del 1793 Humboldt ha individuato una delle cause della esemplarità dei greci nel principio della partecipazione che caratterizza il loro vivere sociale e vi ha collegato, secondo una tesi ancora precedente, risalente al saggio sulla religione del 1788-89, il carattere della religione greca. Né significa esaltare la illimitata singolarità a danno della collettività, che al contrario è propria del mondo greco ed è del resto necessaria a realizzare l'individualità non monadica, come sostengono le idee sui limiti dell'attività dello Stato del 1792. Però va detto che esistono varie modalità del rapporto uomo-cittadino. Il sistema politico degli stati antichi non poteva orientarsi, secondo Humboldt, verso l'esterno in direzione della libertà, ma del dominio, e la sicurezza di questi stati poteva essere assicurata solo dal dominio universale, come è dimostrato da Roma. Di contro, il sistema coloniale greco non ha realizzato questo principio. Ha solo favorito lo sviluppo del commercio, la geografia, la cultura, troppo poco rispetto alle richieste per la sopravvivenza della cultura classica, che imponeva una educazione prevalentemente politica dei cittadini, quale Roma realizzò. Invece, il carattere greco rifiutò di pagare il prezzo della uniformità, che era una conseguenza possibile della politica, il prezzo che i romani pagarono alla loro grandezza e i moderni pagano alla loro sicurezza. Ciò spiega la fatale decadenza politica dei liberi stati greci, in progressione inversa allo splendido spiegamento della loro cultura, che tocca l'apice proprio all'inizio della decadenza. Di qui l'interesse di Humboldt, come di Niebuhr, per l'età di Demostene, per il periodo della decadenza da Filippo ad Alessandro. Nel mondo antico la sintesi uomo-cittadino avrebbe dovuto essere, come in Roma, e questo contrasta con la natura greca, totale, totalistica, totalitaria. Solo nel mondo moderno, grazie al cristianesimo, la cultura in quanto bildung ha preso la direzione dell'individualità e quindi consente di realizzare una nuova dimensione dell'impegno etico-politico del cittadino. La connessione greca tra uomo e cittadino, diversa da quella egiziana e da quella romana, fu di tipo federalistico, in senso non solo politico, perché era un'unità derivante da una molteplicità di forze liberamente collegate e collegantesi. Questa fu la grandezza dei greci, il loro imperituro contributo alla cultura europea, ma anche la causa intrinseca della loro decadenza, che ormai può essere tematizzata in connessione con la consapevolezza humboldtiana della conflittualità della storia universale. In questo ambito vanno sottolineati alcuni elementi che la discussione sull'antico nella Goethe Zeit dopo Humboldt non ha abbandonato. Basti qui, ma ripeto, insegnamenti del professore Momigliano, un saggio di, credo, circa 50 anni fa, che è un classico della nostra storiografia, basti qui nel contesto del discorso finora richiamato sottolineare la centralità assegnata al significato e alle forme della libertà greca, tema determinante in Droysen e dopo Droysen. Basti richiamare la finissima osservazione sull'influenza della filosofia platonica e neoplatonica sul cristianesimo e quella sulla mediazione romana, grazie all'impero bizantino, tra grecità e cristianesimo, dove si profilano temi e problemi della non lontana identificazione droiseniana dell'ellenismo. In ogni caso, resta acquisito nel confronto con il moderno la distinzione del mondo antico e quindi viene posto implicitamente ed esplicitamente la questione della mediazione tra l'una e l'altra età storica, che era poi il problema proprio dell'ellenismo di Droysen, dal quale non è possibile neppure fare un cenno senza ricordare sulla via di Humboldt, che sulla via di Humboldt si posero ora con maggiore, ora con minore autonomia alcuni campioni della storia filologica, da Niebuhr, come Niebuhr e Beck. Infatti la conoscenza dell'antico e il connesso raffronto con il moderno non è soltanto l'espressione di uno studio teorico, del quale peraltro non si nega né si può la rilevanza, giacché per esso passa la fondazione della conoscenza storica come scienza di esperienza. Attraverso questo studio e la connessa determinazione dello statuto epistemologico della conoscenza storica si costruisce progressivamente la politicità della comprensione, sempre più interpretata come qualcosa che non si esaurisce nella contemplazione. Ci sono delle pagine che non ritengo né necessario né possibile, anche per mia tutela, leggere su Niebuhr e l'attenzione che Niebuhr rivolge allo studio della storia antica come studio filologico, alla importanza per i destini della libertà che presso il nuovo centro dell'Università di Berlino ci sia un filologo di un certo tipo, e su Beck, dove, seguendo appunto le indicazioni di Momigliano, riprendo la tesi del capovolgimento dei temi di Humboldt, però conservando, a me sembra, in Beck l'idea di fondo della ermeneutica hegeliana, l'ermeneutica humboldtiana. posso concludere soltanto con una, la tortura dura ancora poco, soltanto leggendo ancora una paginetta, nella quale ritengo che nella diversità tra antico e moderno Humboldt è interessato, la diversità che appunto anche in Beckett c'è, secondo quella tipologia che è stata più volte richiamata anche in questo seminario, è interessato a non accogliere ciò che segna il passaggio dall'uno all'altro mondo pure distante, così da garantire la continuità della storia universale, della quale non a caso rifiuta il teleologismo e della quale storia universale tratta sempre, anche quando parla, quando sembra che parli del carattere dei greci. L'esemplarità dei greci è solo la constatazione di qualcosa che è stato, che è inimitabile, che può essere ancora, ma non nel senso di un ritorno, ma nel senso della perfezione a cui deve tendere la storia, la cultura umana. Ciò che è venuto dopo, secondo Humboldt, è nuovo perché è altro, perché è diverso. Ed Humboldt della differenza vuole occuparsi. In lui l'antico serve solo a fondare e dimostrare due principi della storia che egli enuncia non a caso, l'uno all'inizio e l'altro verso la fine della sua riflessione. L'interesse dell'individuo e della società è legato intrinsecamente alla risposta data alla questione quale condizione futura si sviluppa dal presente, così come questo si è sviluppato dal passato, da ciò che l'ha preceduto. Perché, ed è il secondo principio, l'umanità è qualcosa di mai esaurito, è un oggetto infinito. Sono principi antitetici a quelli di Schiller e di Hegel, sono principi che, pur non sempre intesi nella loro radicale novità, hanno segnato profondamente, io credo, la riflessione sull'antico dopo Humboldt, anche in Droysen, che cercò una mediazione tra gli insegnamenti di Humboldt e di Hegel. Ma questo è, per fortuna, un altro capitolo che non tocca a me affrontare. Preso in considerazione per sé, quindi qualunque cosa che uno possa dire dopo da altri punti di vista deve tenere conto, e di questo dobbiamo essere estremamente grati a Tessitore. Naturalmente il fatto che il frammento di Tubenga non è lo studio di Hegel e che Humboldt lo studio dell'antico siano tutti e due del 1793 non è caso, è vero, è l'anno del terrore. E siamo qui, è vero, in una situazione per cui in tutta la Germania si discuteva in quel momento da vari aspetti. Quella rivoluzione francese che aveva fatto perdere a Kant la sua puntualità è stata giudicata in Germania immediatamente da tutti i punti di vista, basti pensare alla discussione sulle leggi agrarie che nel 1793 avviene in Germania da tutte le parti e su cui io ho scritto altrove. Ora, che cosa è il rapporto tra questa reazione di Hegel e Humboldt e la situazione francese? Questa è la prima domanda. La seconda domanda, che è ugualmente relativa a questa situazione, è il fatto che non è certamente, qui ha perfettamente ragione Tessitore, non è certamente caso che per Humboldt il problema della decadenza dell'antichità è fondamentalmente non un problema della decadenza di Roma, ma un problema della decadenza della Grecia. La cosa da spiegare è la Grecia. Ora, qui siamo intorno al 1806 e siamo soprattutto in una situazione in cui il romanticismo tedesco, se vogliamo parlare così in una forma che in genere io evito, è vero, cioè, in cui questi gentiluomini, è vero, che avevano considerato l'Elade perfetta, devono pure dire che c'era almeno un piccolo guaio a questa perfezione, e cioè che l'Elade si era lasciata dominare dai romani. che era decaduta. Quindi il problema della decadenza dell'Ellade e nello stesso tempo è un problema, diciamo così, teorico e filosofico, che so io, della decadenza di una perfezione, ma è anche un rapporto con Roma. Ora, la Roma del 1806 è, in poche parole, la Roma di Napoleone. Quindi siamo di nuovo 793 o 1806, siamo sempre ancora, abbiamo da fare con i francesi, è vero, e questo è tutta l'Europa ha da fare con i francesi. Ora mi domando un po' se c'è qualche offerta da parte di Tessitore su questi punti. Herr Professor Tessitore will nach den einzelnen Diskussionsbeiträgen zusammenfassend antworten. Die zweite Wortmeldung, Herr Präsident, bitte. Ich entschuldige mich, wenn ich einige sehr unphilosophische Feststellungen mache und zunächst einmal Herrn Kollegen Tessitore sehr herzlich danke, dass er auch, glaube ich, eine Figur gleich an den Anfang gestellt hat, die für die Verbreitung dessen, was Herr Kollege Christ, die Idealisierung der Antike und besonders des Griechentums gemeint hat, ja unendlich bedeutsam ist. Das ist der Herr Kollege Historiker, den ich als Historiker durchaus schätze, Friedrich Schiller. Und zwar auch natürlich mit von unserem heutigen Standpunkt der Historiker aus teilweise verhängnisvollen Folgen, wie sie ja überhaupt der Klassizismus auch gehabt hat. Bei aller Verehrung des Klassizismus sind natürlich auch negative Folgen, jede Medaille hat ihren Provecho. Zunächst einmal die ungeheure Wirkung, die Welt wird ja von Schlagworten beherrscht, den diese wunderbare Formel Schillers geprägt hat, Griechheit, was war sie, Adel, Maß und Klarheit. Grecità cos'era, nobiltà, misura e chiarezza. Das ist ein Wort, das natürlich in den humanistischen Gymnasien und immer wieder wiederholt worden ist. Sie haben auch erwähnt, das Gedicht Die Götter Griechenlands und das Gedicht Die Künstler. Dieses Gedicht Die Künstler enthält einen wunderschönen Passus, der aber für das historische Verständnis geradezu verhängnisvoll war. Darf ich ihn zitieren? Entschuldigen Sie, ich bin kein Rezitator, aber er heißt folgendermaßen: Vertrieben von Barbarenheeren, das sind die Türken, vertrieben von Barbarenheeren, entrisset ihr den letzten Opferbrand des Orients entheiligten Altären und brachtet ihn dem Abendland. Da stieg der schöne Jüngling aus dem Osten, der helle Tag im Westen neu empor und auf Hesperiens, also auf Italiens, gefilden Sprossen aus Hesperiens gefilden Sprossen verjüngte Blüten Ioniens hervor. Das heißt, das ist das Konzept, dass die Renaissance, der Humanismus und so weiter von den Vertriebenen nach dem Fall Konstantinopels oder vielleicht auch schon vorher nach Italien vertriebenen byzantinischen Gelehrten eben mit dem Plato im Gepäck hierher gebracht worden ist und dass die ganze Kunst nachher, die ganze Entwicklung, als ob es keinen Betrag gegeben hätte und so weiter, alles nur durch diese nach Italien vertriebenen Griechen gebracht würde. Und damit hätte natürlich mit diesem Konzept, nicht von, ich meine, es ist natürlich nicht, dass das Goethe von Schiller übernommen hat, aber es passt genau dahin. Wir haben jetzt in diesen Tagen, jemand hat schon daran erinnert, die italienische Reise Goethes, Jahr 200 Jahre her, da ist dieses für uns heute unvorstellbare Faktum, dass er auf der Fahrt durch Assisi in Begeisterung gerät vor dem Minerva-Tempel und San Francesco überhaupt nur einen Gedanken widmet, nämlich, dass dort Geister wie dieser dumme päpstliche Hauptmann, der ihm da erzählt hat, dass der Friedrich der Große eigentlich ein geheimer Katholik sei, dass solche Köpfe geprägt werden. Und daher ist er also von vornherein nicht hingegangen. Das heißt, das hat ihn überhaupt verärgert. Über Goethes schlechten Kunstgeschmack, wo er schreibt, die herbe Schönheit der Primitiven blieb ihm verschlossen, Guido Reni und Carlo Dolci waren sein Ideal. Und das gehört natürlich auch nun, und da komme ich wieder, zu Humboldt, und zu, also jetzt will ich sozusagen bei aller Bewunderung für Humboldt die Folgen sozusagen behandeln, also auch das Geschichtsbild. Ich glaube, bei der bildenden Kunst spielt ein bisschen die Farben und Fremdheit und Bildfremdheit der protestantischen Kultur auch aus religiösen Gründen mit eine Rolle, aber es ist ja immerhin im Übrigen, aber darüber müsste man noch da nachdenken oder gewisse Forschungen machen, aber es kommt natürlich von Winkelmann auch her, diese Vorstellung, also nur die Nachahmung der Griechen ist bedeutsam. Aber jetzt für unsere Schulen zum Beispiel, unseren humanistischen Unterricht, das ist auch verhängnisvoll in gewisser Hinsicht gewesen, diese Konzeption für unseren Schulunterricht, und zwar nicht nur der antiken Geschichte, sondern wir haben ja hier auch ein Thema Italien, Deutschland für den Unterricht in der italienischen Geschichte. Ja, das Konzept trotz Treusen, das wir noch im humanistischen Gymnasium gelernt haben, ich glaube auch in Italien man lernt, die griechische Geschichte, die endet mit der Schlacht von Chäronea, mit dem Untergang der Kommunen, dem Niedergang, mit Alexander, das ist noch eine große Gestalt, und dann ist aus. Und dann kommt Rom, und in der römischen Geschichte tauchen dann aus dem Nichts die Kleopatra und der Pyrrhus und so weiter, tauchen dann Leute auf, von denen man aber vorher nie was gehört. Das waren nur die Diadochen, und dann bekommen da Leute aus diesen rein. Ich meine, ich übertreibe jetzt absichtlich. Und dasselbe spielt sich dann beim Bild parallel übertragen auf die italienische Geschichte. Die italienische Geschichte in unseren Schulbüchern hat immer eigentlich geendet und auch im Geschichtsbewusstsein mit dem Sacco di Roma, da spielt der Nominoma eine Rolle und so weiter, und dem Untergang der Republik. Und dann kommen die Secoli, the Dark Centuries, wie mein Frank Cochrane von der Universität Chicago gesagt hat. Dann kommen die Dark Centuries und dann kommt dann auf einmal der Garibaldi heraus. Das ist, also ich übertreibe jetzt bewusst, natürlich, ich weiß auch das Settecento, aber das Settecento ist ja auch nur ein bisschen ein Vorhof, eine Vorhölle vom Risorgimento, dann kommt auf einmal das Risorgimento. Und dazwischen ist nichts. Das heißt, dieses selbe Bild, der Pasqual, der städtischen Freiheit ist das Ende der Geschichte, das andere ist eigentlich nicht interessant. Und in der Beziehung, also im Zusammenhang mit der bildenden Kunst, wenn ich das noch sagen darf, hat es mir leid, tut es mir doppelt leid, dass von italienischer Seite nicht der verehrte Kollege Massimiliano Pavan gekommen ist, der als Veneter sehr viel über Canova gearbeitet hat. Denn Canova ist da geradezu ein klassisches Beispiel, als er sein Meisterwerk in Wien, das Grabmal für die Marie-Christine gemacht hat, das dann seine Schüler als Vorbild für sein eigenes Grabmal genommen haben, hat ein österreichischer Künstler, der gar nicht berühmt ist, daneben, drei Schritte daneben sozusagen, neben der Augustinerkirche, das Denkmal Josefs II. Gebaut. Und da hat er höfliche Canova, aber ich glaube, es war nicht nur italienische Höflichkeit gesagt, die moderne Kunst wird nie wieder einen solchen Gipfelpunkt erreichen wie das Reiterdenkmal Josefs II. Von Zauner. Warum? Dieses Reiterdenkmal Josefs II. Von Zauner ist natürlich noch mehr als der Catamelata und die anderen Reiterdenkmäler eben geradezu eine Kopie des Marc Aurel auf dem Kapitol. Also hier auch die Vollendung unserer Kunst, das sind die Ideen also von, eigentlich von Humboldt, ist nur möglich, wenn man sich den Alten annähert. Entschuldigung. Vielen Dank, Herr Präsident. Herr Kollege Gabar, bitte. Volevo riprendere alcuni punti della, direi, della parte finale della relazione di Tessitore. Anche, evidentemente, anche se è caduto il modello dell'esemplarità del mondo greco come bellezza, Winckelmann, resta però l'esemplarità del mondo greco come nell'insieme della storia. E uno dei punti centrali di questa esemplarità è il rapporto fra Stato e cittadini. E mi sembra allora qui che ci sia in Humboldt chiaramente tutto un esito di una lunga discussione dell'età illuministica su questo problema, sull'idea di libertà, penso al libro di Guerci per esempio, sopra la libertà Sparta e Atene. E appunto vorrei chiedere allora che rapporto c'è fra questo modello che Humboldt ha davanti, e non solo lui, e propriamente una conoscenza documentata della storia greca, specialmente la posizione di Atene o di Sparta, per esempio, qual è nella storiografia inglese della seconda metà del Settecento, che è piuttosto lontana da queste tematiche, casomai identifica Atene con certe posizioni politiche più recenti. E anche quell'accenno poi fatto molto interessante, appunto che a un certo momento si va a finire verso accenni al problema del federalismo, così, che è una delle altre tematiche della riflessione storiografica settecentesca, colonie, federalismo del mondo greco. E a proposito di quello che diceva Momigliano, mi viene in mente quell'opuscolo famoso, adesso mi sfugge il nome dell'autore, I Romani in Grecia, pubblicato in Italia appunto nel 96, 1796. 1700 di... quello di un autore bresciano e della zona lì tra Bergamo e Brescia, che ha pubblicato I Romani in Grecia ed è una polemica contro Flaminino che è in realtà una proiezione dell'invasione napoleonica in Italia, dove appunto si vede così la distruzione che Roma porta in Grecia paragonata all'ingresso dei francesi negli stati italiani, che è appunto uno il concetto che tu hai detto dei popoli barbari che vincono i più fini, i più corti. Non è Bertola, no? Bertola. Ma un nome. Quello che ha scritto anche per la filosofia. Io l'ho anche citato, sì. L'ho anche citato. Che uno che scrive a lungo anche poi nella prima metà dell'Ottocento su tono completamente filo austriaco. Grazie. A me è interessato molto questo punto appunto della non frattura tra uomo e cittadino e delle modalità del rapporto uomo cittadino e Intanto vorrei notare che rispetto appunto alla tradizione delle libere repubbliche greche, qui affiorerebbe almeno dall'accenno di Tessitore questo concetto della schiavitù, che invece non appare in quella tradizione se non a partire da Volney, a partire proprio dall'indomani del terrore e del superamento del terrore. E poi va avanti nella tradizione, però bisognerà aspettare poi ancora parecchio perché venga sottolineato. Ma un altro punto interessante è quello su queste modalità del rapporto uomo-cittadino, studiato nelle necessità di dominio dello Stato antico, ma con una lettura del sistema coloniale greco che sembrerebbe orientata invece per pura diffusione di culture e di commerci e non di espansione. Ora, anche questo è qualcosa che suona diverso da quella che sarà la tradizione ottocentesca tedesca e prima che tedesca rotiana, tutta centrata sul concetto di egemonia e sui discorsi dei corinzi e dei corciresi nel dibattito tucidideo, da cui deriva in fondo questa lettura egemonica della colonizzazione, che in fondo è una forma di modernizzazione della lettura delle apoichiai greche. In Humboldt ci sarebbe già questo accento sulla cultura, sulla diffusione della cultura, sulla diffusione commerciale, non sull'espansione, che invece poi caratterizzerà per esempio gli scritti di Curtius, dove la diaspora greca però è vista sempre sotto il profilo della ricezione rotiana del concetto di egemonia ed è letto in quelle forme. Ora direi che se ancora una volta qui c'è l'esito di una discussione illuministica, questa non va in fondo disgiunta dal problema del federalismo greco, perché le due cose, colonizzazione nelle discussioni settecentesche dalla rivoluzione americana in poi e federalismo greco nella discussione, sono intimamente legate tra loro. Quindi sarebbe interessante andare ad approfondire qual è la formazione di Humboldt concreta su questi problemi. Vielen Dank. Dann Herr Dr. Palmieri, bitte. A me interessava moltissimo l'aspetto, più che l'aspetto finale, l'aspetto diciamo iniziale, fino alla metà della relazione del professore Tessitore, cioè il discorso sul passaggio dalla nostalgia, cioè dalla conoscenza, diciamo dall'approccio al mondo nostalgico, tra virgolette, al mondo greco, cioè poi diciamo all'approccio conoscitivo, diciamo alla conquista della dimensione storica, alla dimensione della separatezza, cioè diciamo la conquista di sentirsi diversi, della non riproduttività. E però mi sembra, cioè appunto a me sembra, cioè guardando alla realtà poi dei viaggiatori, anche degli studiosi che si sono avvicinati al mondo greco e diciamo anche all'Italia meridionale, che in fondo era la Grecia, perché è in Arcadia Ego di Chiete rivolto appunto proprio all'Italia meridionale, alla Sicilia, questa dimensione, questa permanenza diciamo fino alle propaggini tardo ottocentesche, inizio novecentesche, di questa dimensione della nostalgia, no? Cioè nella cultura dei viaggiatori, ma anche diciamo nella cultura diffusa tedesca. E perciò abbiamo cioè da un lato l'intellettualità o più alta a livello filosofico, perché io direi anche a livello degli studiosi, cioè parecchi sono rimasti alla dimensione nostalgica, no? Nel corso dell'Ottocento, mentre invece Hegel, Humboldt conquistano questa dimensione più storica, cioè invece la dimensione della nostalgia, che era la dimensione di cui si è partiti. Per esempio, io la ricordavo che hanno fatto a Roma una mostra dei disegni degli dei fatti da Goethe nel corso del suo viaggio in Italia, che sono all'Accademia del Wissenschaften di Berlino, no? La Dedea ha fatto questa mostra di questi disegni dei greci di Goethe. E poi pensiamo anche a questo trasferimento in fondo della fine del Settecento della Grecia in Italia meridionale, cioè quello quando descrive est in Arcadia ego, cioè che poi diventa, cioè questa, la grecità viene trasferita in, cioè il luogo dell'Ellade, cioè viene spostato, e poi l'ultima cosa, il, diciamo, l'approccio che in fondo è stranissimo alla, diciamo, alla dei viaggiatori, penso anche a Riedesel ad esempio, cioè non a Barthes, però, perché Barthes è già un'altra cosa, cioè si interessa ai problemi reali del meridione, cioè ad esempio parla dei commerci, questi arrivano e pensano di essere in Grecia. Ecco, di fatto l'atteggiamento è la necessità loro di conquistare la grecità, cioè proprio nella, e di quasi di confondersi, e dunque questa continuità di questa linea nostalgica rispetto, diciamo, alla linea, diciamo, della conquista storica del, cioè della Grecia. Professor Campiano. Vorrei fare una breve domanda relativa ai rapporti, alle differenze Humboldt-Hegel. Mi pare che il professore abbia svolto un discorso pienamente convincente sulle differenze tra i due e individuato due punti chiave per queste differenze. Uno è il rapporto con Kant, il diverso rapporto con Kant, la maggiore attenzione di Humboldt sulla prima critica, quindi sugli aspetti conoscitivi, che non sulla terza, che invece è al centro di Hegel e dei romantici in generale. E dall'altra sull'interesse per la filologia, il suo rapporto con Göttingen, eccetera. Ecco, la prima domanda è se ci può essere una connessione tra questi due fatti, cioè se entrambi questi filoni non si ricolleghino ad una tradizione, diciamo grosso modo empiristica, tanto per intenderci, per cui la conoscenza è sempre condizionata dai dati. Ecco, quindi è sempre limitata, deve sempre partire dai dati, non può saltarli come fa invece la tradizione hegeliana, diciamo in generale idealistica. Il secondo punto è sul rapporto con Göttingen, cioè se per la costruzione della sua antropologia Humboldt non tenga conto anche di tutto questo complesso ambiente göttingese, per esempio nel suo concetto di individualità non come sostanza ma come energia. Ecco, allora qui, non so, l'antropologia di Blumenbach, figure come Lichtenberg, e poi l'emergere in questo, proprio in questi anni, del problema dell'elettricità. Non è un caso che suo fratello Alexander von Humboldt pubblichi un volume proprio che prosegue le ricerche di Galvani sulla eccitabilità dei nervi e dei muscoli, eccetera, dove quindi il concetto di energia è centrale per definire questa posizione antropologica. Grazie. Professor Wesson, Arrigo. Ma io ero interessata a quel cenno iniziale che lei ha fatto, credo che veramente sia uscita, del passaggio dal politeismo al monoteismo, che mi sembra abbastanza raro all'inizio dell'Ottocento e che poi ritorna anche in Bacopa. Il motivo era questo. Dottor Wesson, ecco. Io sono stata in parte anticipata del dialogo, volevo chiedere sul concetto di forza, di energia, che mi pare sia al centro anche di questa immagine della città in mondo. Se questo concetto, più che appunto riferito o conducibile all'universo kantiano, non sia invece erede di una tradizione che è in primo luogo, penso, la egiziana, e poi sicuramente appunto legato appunto alla mia discrezione, alla discrezione. Questo credo sia un punto poco noto di Humboldt. Forse sono troppo cattivo di scrivere un piano. Grazie. Vorrei ancora, poi dopo. Ich hätte eine Frage zu Hegel. Und zwar würde mich etwas präziser interessieren, in welchem Sinne die Antike zum Gegenstand der Ontologie bei Hegel wird. Deswegen, weil die zwei Punkte, an denen die Antike durch Hegel verhandelt wird, eigentlich zunächst in die praktische Philosophie, also die Rechtsphilosophie, gehören. Die substanzielle Vollsittlichkeit, von der die Rede war, gilt für Hegel als Gegenbild gegen die moderne Subjektivität und gleichzeitig als Inbegriff dessen, was man wiedergewinnen muss durch geistige Anstrengung, wenn man eine derartige Lebensform, eine geordnete Lebensform, wie sie in dem Kollaps bestanden hat, leben will, was man nicht kann auf dieselbe unmittelbare Weise, wie es dort geschildert hat. So denkt Hegel. Das wird in der Rechtsphilosophie verhandelt und fällt damit in die praktische Philosophie, nicht in die Ontologie. Das Zweite, die Geschichtsphilosophie, also die philosophische Bewältigung der Geschichte als Ganze, hat bei Hegel die Funktion nachzuweisen, dass der moderne Staat nicht nur zufällig existiert, sondern dass er aus eigenem Recht existiert. Hegel verwendet die Schillersche Metapher von der Weltgeschichte als Weltgericht, um diese Rechtsprechung gewissermaßen philosophisch nachzuweisen. Auch das wird in der praktischen Philosophie, also der Rechtsphilosophie zunächst verhandelt und dann in einer eigenen Vorlesung nachgewiesen. In der Seinslogik und in der Wesenslogik ist von ganz anderen Dingen die Rede. Also ich wollte fragen, inwiefern die Antike als Gegenstand der Ontologie verstanden wird, so sie doch zunächst einmal dem unbedarften Leser in der Rechtsphilosophie, also in einem Buch aus der praktischen Philosophie, entgegenkommt. Io volevo semplicemente aggiungere un punto che mi pare che non sia stato toccato e che è indispensabile per tenere i piedi sulla terra, cioè che naturalmente esisteva Sparta ed esisteva Atene. Ora dico, questo qui è vero, che cosa si intendesse per Hellas è un problema difficile, perché se un Hellas generico che va da Schiller a Hölderlin, questo è ovvio, ma esiste anche un'idea chiara che in Humboldt è essenziale, quella di Atene. E poi naturalmente più tardi prevale, ritornando però ai dei settecenteschi, quella di Sparta. E basti pensare che la storia più importante di Sparta di questo periodo, di Manco, in quella Breslau dove Carlo Otto Müller cominciò la sua carriera. Il punto essenziale per Atene è naturalmente la ripresa di Demostene da parte di Nibur nel 1805. E i limiti dell'azione dello Stato sono naturalmente un'analisi con riferimento fondamentalmente ad Atene. E non dimentichiamo che i limiti dell'azione dello Stato di Humboldt furono ripresentati in Italia contro il fascismo da Benedetto Croce, in un testo che è famoso e che è veramente essenziale per la comprensione del liberalismo di Croce. Ora quindi qui questa questione, devo dire che qui noi dobbiamo molto a quello che è stato fatto da Vidal Naquet, perché Vidal Naquet ha senza dubbio avuto il merito di ripresentare questa interpretazione settecentesca sia di Atene sia di Roma. Der Reihe der Wortmeldungen darf ich mich nun noch selbst anschließen und lediglich als profaner Historiker Ihr so schönes, gediegenes, differenziertes Referat ergänzen. Für einen Althistoriker, nicht für den Philosophen, für einen Althistoriker ist überraschend, dass Hegel in der Philosophie der Geschichte, in dem Kapitel über das politische Kunstwerk, in dem er den Staat der Griechen beschreibt, nach der allgemeinen Definition und nach dem allgemeinen Inhalt, den Sie hervorragend geschildert haben, zusätzlich drei Spezifika der griechischen Republiken nennt, die für den modernen Historiker etwas überraschend sind. Erstens die Orakel. An erster Stelle die Orakel. Das heißt, die religiöse Dimension ist für ihn spezifisch für die griechische Staatenwelt. Das zweite Element, und hier haben wir den großen Spezialisten unter uns, ist die spezielle Einstellung zur Sklaverei. Auch er nimmt, wie Humboldt, die Institution der Sklaverei hin als Fundament der griechischen Gesellschaft. Er rechtfertigt das folgendermaßen, ich zitiere ihn, die Sklaverei hört erst auf, wenn der Wille unendlich in sich reflektiert ist, wenn das Recht gedacht ist, als dem Freien zukommend, der Freie aber der Mensch ist, nach seiner allgemeinen Natur als mit Vernunft begabt. Hier in Griechenland aber stehen wir noch auf dem Standpunkt der Sittlichkeit, welche nur Gewohnheit und Sitte ist und damit noch eine Partikularität im Dasein. So wird also gleichsam von ihm die Institution der Sklaverei historisch eingeordnet im Rahmen einer Gesamtentwicklung. Und das dritte entscheidende Element ist dann seine Präzisierung der griechischen Demokratie. Die Distanz dieser griechischen Demokratie zur Demokratie der Französischen Revolution. Er sagt, in der Französischen Revolution ist deshalb niemals die republikanische Verfassung als eine Demokratie nach griechischem Vorbild zustande gekommen. Also diese ausgesprochene Distanz zwischen griechischer Demokratie und der Demokratie der Französischen Revolution ist das dritte Spezifikum, das er in diesem Zusammenhang herausnimmt. Das ist keine Frage, sondern lediglich eine Ergänzung zu Ihrem Fall. Wollen Sie? Bitte sehr. Ja. Io volevo anche fare delle domande, non mi sono iscritto prima alla lista. E in particolare volevo fare due domande anche strettamente collegate tra loro. Cioè, da una parte lei ha parlato di ermeneutica humboldtiana. Secondo me ci sono dei problemi, almeno per quanto conosco io, di Humboldt e di quello che viene soprattutto prima di lui. Cioè, con Winckelmann, ne avevamo già parlato, l'aveva anche accennato appunto il professor Christ, inizia questa una idealizzazione dell'antichità e allo stesso modo però una storicizzazione, cioè dice questa una tale società, una tale cultura poteva nascere solo in una determinata condizione geografica, climatica, eccetera, dove però poi Winckelmann cade, diciamo, nella contraddizione di vedere l'arte greca da una parte come unica e porla e irripetibile e porla dall'altra come modello di imitazione. Questo problema viene approfondito e portato alle estreme conseguenze da Herder. Herder, negli scritti ancora nei primi scritti del 68, 1768, mette in dubbio la possibilità che noi moderni possiamo ancora comprendere i greci. Cioè, quando io leggo Omero, che lo leggo nella lingua originale o nella lingua o in una traduzione, io lo traduco in un altro modo di pensare. Cioè Omero e i greci come erano al tempo non sono più raggiungibili da noi moderni. Salto adesso in questo momento Schiller e Schlegel come hanno considerato la modernità, perché per Schiller non era tanto importante una comprensione storica dei greci, cioè funzionava più come modello da opporre alla modernità, gli interessava all'interno dei suoi interessi stretti. Per Humboldt questo problema di ermeneutica, cioè la possibilità di comprendere l'antichità, viene risolto a mio avviso in due modi. Da una parte Humboldt giustifica questa possibilità che noi moderni abbiamo di comprendere i greci basandosi sulla Einheit des Menschen geschlecht, cioè l'unità della razza umana, che ritorna, è un'idea fondamentale per gli scritti storici e anche per quelli linguistici, ad esempio l'unità di tutte le lingue. Ecco, da una parte quindi c'è questa, secondo me, questa idea che serve a permettere questa mediazione, questa comprensione tra antichi e moderni, e dall'altra invece c'è una specie di, diciamo così, adesso non so come definire, un'ermeneutica per contrasto, cioè i greci sono comprensibili per noi proprio perché ci sono estranei, e questo soprattutto servono tanto di più quanto più ci sono estranei, e questo era quello che lei aveva sottolineato giustamente, il fatto che lo studio non è un ergo, non vale come prodotto, ma vale come energia, cioè come tensione, come strainer. Vicino a questo problema, quindi questo riguardo l'ermeneutica, secondo me Humboldt non ha una concezione, una coscienza ermeneutica quale poteva avere Schleiermacher nello stesso periodo, ed è più vicino invece proprio per questa concezione dell'unità, dello spirito umano, l'aveva citata anche penso il professor Boltzmann, a Astor. Cioè questa comprensione è già data in partenza, diciamo la possibilità di questa comprensione è data in partenza dall'unità dello spirito umano. Per quanto riguarda l'idealizzazione, di cui aveva parlato invece il professor Christ la prima volta, nel suo primo intervento, mi sembra che vada sottolineato in Humboldt la coscienza di questa idealizzazione. Cioè non è un'idealizzazione che avviene come poteva essere in Winckelmann, che sicuramente non si rende conto. Cioè, io penso dica anche espressamente Humboldt che in fondo non gli interessa realmente come erano, come sono stati fatti nella realtà. Cioè questo, i greci funzionano come ideale, cioè hanno importanza proprio in quanto possono venire visti come ideale. Quindi l'autocoscienza di questo processo di idealizzazione che mi sembra importante per Humboldt, che forse è già presente anche in Schiller, nel senso che Schiller, per Schiller in fondo, soprattutto io penso anche più a Naif und Sentimentalische Dichtung, su poesia naif e sentimentale, la poesia naif gli serve solamente per dire com'è la poesia sentimentale. C'è stato uno studioso di Berlino, Stondi, che ha intitolato un saggio Das Naive ist das Sentimentalische, cioè non esiste naif senza sentimentale, è una contrapposizione dell'antico che serve solo a delineare il moderno. Lo stesso più o meno vale per la concezione di Schlegel nel saggio Über das Studium der griechischen Poesie, sono tutti scritti attorno al 93-94, questi di Schiller e di Schlegel, in cui questa esaltazione dell'antichità serve solamente, solamente tra virgolette, perché proveniva da studi classici fondamentalmente, Schlegel, è molto approfondito anche, ma serve per mettere in risalto le caratteristiche della modernità e in fondo anche per esaltare, già prima appunto di Humboldt, per esaltare la positività anche di questa, della modernità, cioè quasi la superiorità appunto della modernità e della scissione in quanto regno anche della libertà rispetto invece ad un'antichità che era sì completa, come aveva sottolineato, aveva questa la totalità nella libertà, eccetera, in cui però non si dava libertà. Ed è le stesse contrapposizioni venivano anche, mi sembra, in quella contrapposizione di Goethe che l'ha citato, c'era da una parte la mancanza di libertà nell'antichità, che forse era l'unico attributo negativo e poco ideale rispetto alla modernità. Ja, es ist sehr schwierig, tanto difficile che io, più ancora che ringraziare tutti loro per gli interventi, devo complimentarmi per la resistenza, perché le domande poste richiederebbero, se ne avessi la capacità, un intrattenimento almeno lungo quanto era la mia relazione. Cercherò di cavarmela cercando di raggruppare i problemi posti, almeno quelli che a me risultano più agevoli. E devo in primo luogo ringraziare, non per fatto convenzionale, Momigliano, per aver appunto sottolineato la rilevanza del profilo filosofico per comprendere il problema e quindi in qualche misura di avere giustificato la presenza di un filosofo, anche se poco filosofo, tra tanti storici. E allora cercherei di rispondere a un primo gruppo di problemi proprio su questo piano filosofico. Le linee per quello che valgono della mia ricostruzione di Humboldt, sia stamattina come in altri lavori, sono fondamentalmente due, che io sono disposto ad estremizzare, anche se ho consapevolezza del fatto che non vanno estremizzate. E cioè, da un lato, il rapporto con il classicismo, con Winckelmann, e dall'altro il rapporto con la filosofia idealistica, in modo particolare con Hegel. Io sono abbastanza convinto che la posizione di Humboldt si differenzia abbastanza nettamente rispetto alla prima posizione e alla seconda. Per quanto riguarda il classicismo, tutte le, credo di averlo sottolineato implicitamente anche io attraverso la indicazione delle analogie con Schiller, altrove l'ho fatto anche con Winckelmann, a me sembra che un punto però sia determinante, e questo mi consente di dare non una risposta, ma così una indicazione, di raccogliere indicazioni che Momigliano ha sottolineato, e cioè la politicità su doppio piano, la politicità di questo suo interesse per l'antico, come cercherò di qui ad un momento di dire brevemente, e la politicità del Verstehen, della comprensione, che mi sembra una novità importante di Humboldt. Sul fronte hegeliano, qui ci sono osservazioni importanti che ha fatto l'amico Cambiano, qui direi che ugualmente la posizione è radicalmente diversa. Io mi spingerei sino a dire che, se me lo consentite, che Humboldt non è un idealista, nonostante le idealizzazioni e tutto quello che si vuole dire. E il punto è proprio Kant. Il Kant di Humboldt non è il Kant fichtiano con il quale Hegel polemizza, ma che poi in qualche misura prosegue. Il suo problema è proprio l'opposto, non è quello di dissolvere il noumeno, ma in qualche modo di fondarlo, perché questo gli garantisce la fondazione dell'esperienza. E a me sembra estremamente importante il rapporto con Kant. Ha ragione Cambiano, avevo tentato di dirlo anche io, anche per la filologia, la svolta kantiana. Il problema, per Humboldt, il problema che pone Kant non è più il discorso sull'essere, ma il discorso sul senso. Quindi da qui nascono molte cose, la simbolizzazione, la comprensione, la conoscenza. A me è parso estremamente importante il fatto che in una lettera a Wolf, che non ricordo bene se è una di quelle che ho citato o no, egli dice che dopo aver letto Kant ha chiaro quello che deve dire sui greci. La introduzione agli studi filologici è la lettura di Kant. E anche qui importante, come si diceva, il Kant della prima critica, che egli dice si chiarisce attraverso la terza, però è la prima critica, la sua preferenza è esplicita, va al Kant, diciamo così, teoretico e non al Kant pratico. Un altro elemento, certo, in questo credo che in questa lettura kantiana è favorito certamente dalla conoscenza dei gottinghesi. D'altra parte qui è facile, perché poi, se non sbaglio, Göttingen è un centro della diffusione kantiana. Non soltanto in Germania, ma anche di Kant fuori della Germania, in Francia e anche in Inghilterra, passa attraverso Göttingen. E quindi questo rapporto mi sembra indiscutibile e documentabile, le citazioni. Qui naturalmente devo dire che la documentazione è, diciamo così, in qualche modo complicata, perché, come tutti sanno, Humboldt aveva questo grande merito di scrivere e di non pubblicare, quindi non dava fastidio a nessuno, e quindi le note non sempre sono, diciamo così, rese esplicite. Si vendicava però, come ugualmente tutti quanti sappiamo, scrivendo moltissime lettere. Io non ho mai commiserato a sufficienza la moglie, perché se ricordo bene il carteggio con la moglie sono 8 volumi, povera donna, ma scriveva anche ad un numero imprecisato e imprecisabile di amici. E l'osservazione a proposito dei Gottinga e il rapporto con Gottinga si lega anche al problema, alla centralità dell'energia, dell'idea di energia, dell'idea di forza, che è un altro elemento secondo me assolutamente caratterizzante e che secondo me differenzia fortemente Humboldt anche qui dalla tradizione classicistica, dalle teorie di filosofia del linguaggio, Herder, anche rispetto ad Herder, questa idea è un'idea determinante. E qui vorrei dire che per la verità mi sembra un poco forte dire che, se ho capito bene, non c'è in Humboldt una consapevolezza ermeneutica, perlomeno una consapevolezza non pari a Schleiermacher. Io non lo so, ma l'introduzione alla lingua cavi mi sembra che sia un documento di non solo di coscienza ermeneutica, ma di un'ermeneutica realizzata. L'idea di forza, l'idea di energia è proprio definita anche attraverso il linguaggio. Certo, c'è questo problema della unità della razza umana, su questo ritorno di più ad un momento, che volevo dire un'altra cosa collegandomi all'osservazione del rapporto con Gottinga. È stata anche questa una domanda posta, anche attraverso questo rapporto credo che passi questa idea di forza, questa idea di energia. Qui la documentazione è abbastanza agevole, Leitzmann ha pubblicato, se ricordo bene, nel 7° volume delle opere gli appunti delle lezioni che Humboldt giovane aveva avuto, nel caso specifico, da Johann Jakob Engel, che è un leibniziano, è un wolfiano, e poi, cosa interessante, sono lezioni che egli ripeteva al fratello minore Alessandro, quindi un collegamento, diciamo così, probabilmente c'è, quindi è giustissimo, certo, l'idea di forza, in quelle lezioni c'è una esposizione sistematica della monadologia che entusiasmò Humboldt, non però fino al punto di fargli tacere un'obiezione che mi sembra estremamente intelligente. L'obiezione che la monadologia di Leibniz riduce tutto a spirito e trascura il mondo sensibile e il mondo fisico. Questo è un altro degli elementi sui quali, elemento costante in Humboldt, per cui io mi sento di definirlo non idealista, anche nei problemi, quando andrà alla definizione della storia universale, dirà che non gli interessa la storia filosofica del mondo, gli interessa la fisica della storia universale. Mi sembra una cosa importante, che peraltro chiarisce la sua idea di cultura. Anche qui, in un senso, mi sembra abbastanza interessante. Ecco, avevo lasciato, se non sbaglio, un momento da parte il problema della unità della storia. Questa è un'idea, certo, che c'è, ma molto problematicizzata. Alcune dei brani che ho letto mi sembra che la problematicizzano molto. Ma è un'idea che probabilmente mi porta ad un altro gruppo di problemi posti, riguarda qualche cosa che a mio giudizio è molto forte, cioè la formazione settecentesca. Questo è un uomo che si è formato nel Settecento, i suoi testi di formazione sono il Settecento, e qui naturalmente io chiedo scusa ai colleghi storici, non sono in grado di rispondere specificamente sui problemi storiografici che mi hanno posto, però per quel poco che so a livello così di storia della storiografia, mi sembra che il problema del federalismo, il problema della barbarie, il rapporto federalismo-costituzione sono di impianto settecentesco. Basterebbe per alcuni di questi citare Gibbon, che è autore che egli conosce, credo per esempio per la barbarie, anche se poi c'è questo capovolgimento, perché mentre appunto Humboldt crede nella possibilità, anche se questo lo spaventa, della prevalenza dei barbari, come tutti sappiamo, in Gibbon c'è la fiducia che quando poi tutto finirà, quando questi barbari saranno arrivati fino al cuore dell'Europa, resta pur sempre l'America dove si potrà salvare, se ricordo bene. E questa componente settecentesca mi sembra che possa aiutare a dare qualche risposta ai problemi anche del rapporto tra gli interessi tematizzati per il mondo antico e i fatti di Francia. Sempre riportandomi agli appunti sulle lezioni, tra gli autori che maggiormente studio sono autori del Settecento francese, Condillac, per esempio, in modo particolare. Questo anche credo che possa essere interessante. Anche io sono convinto che non ci sia dubbio sul fatto che la Francia è il referente in qualche modo, diciamo così, polemico, problematico del discorso. Tutti sappiamo che era a Parigi nell'89 con la rivoluzione e che la saluta positivamente. Anche per lui i problemi si complicano con il 92, e quel 92 è subito prima del 93, quando scrive, ritorna numerose volte a Parigi. Per quanto riguarda l'806-807 c'è il riferimento esplicito. Ritorniamo ai greci, naturalmente ad Atene, perché questo in qualche modo solleva la nostra coscienza angustiata dal peso del presente, e il crollo prussiano e il cesarismo napoleonico. Io credo che appunto anche questo è un altro tema, il problema, questo fatto che la sua antichità è la Grecia, Roma arriva, diciamo, ne fa parte in quanto è il completamento, anche se con delle sfigurazioni, delle trasformazioni. In ogni modo l'analogia tra il dominio di Roma che distrugge la Grecia, ecco, mentre gli stati greci anche nella loro espansione hanno, come diceva Lepore, hanno realizzato commercio, diffusione della cultura, eccetera, però non hanno realizzato, è una delle ragioni per cui cadono, non hanno realizzato il dominio che invece Roma ha realizzato, anche a danno. Qui credo che sia evidente il riferimento al cesarismo napoleonico, e probabilmente, non lo so, non voglio fare discorsi così per pure e semplice gusto dell'analogia, il fatto che questo è stato ambasciatore di Prussia a Roma tra l'802 e l'808, quando poi appunto va come direttore del culto, e chissà se alcuni problemi anche dibattuti in Italia, questo tema appunto di Roma che distrugge i popoli italici, questa Roma dominatrice, eccetera, in qualche modo non l'abbiano raggiunto. Volevo dire qui, per quanto riguarda il problema di questa grecità, che è la grecità meridionale, mi vorrei rifare ad una annotazione molto fine di Bianchi Bandinelli a proposito anche di Winckelmann, quando Bianchi Bandinelli dice non dimenticate che la storia dell'arte di Winckelmann è fatta su copie romane. Questo mi sembra un elemento importante per... Sempre con riferimento a questo problema della questa politicità, questo rapporto con la Francia, vorrei richiamare, qui non l'ho fatto, c'era solo qualche accenno a quel discorso importante sulla religione del 1788-89, e già lì, quindi prima di altri, c'è la distinzione tra libertà degli antichi e libertà dei moderni. Forse anche questo può essere un tema da tenere presente, e mi sembra un elemento anche questo importante, che peraltro sottolinea una consapevolezza, continuo a dire, mettendo la parola tra virgolette, di politicità di, questa, di questo suo interesse, anche del suo interesse, direi in modo particolare, l'interesse per il mondo antico. Ritorno un momento su Hegel per dire che nella filosofia del diritto, certo, è l'opera, diciamo così, più fenomenologica di Hegel, è l'opera in cui c'è una maggiore sensibilità di Hegel per il determinato e per le determinatezze, ma il mio discorso sulla dimensione ontologica guarda a quello che è il senso complessivo dell'operazione di Hegel. Le determinatezze debbono essere conosciute per essere più agevolmente dissolte, almeno questo mi sembra il discorso, che non è invece il discorso di Humboldt. Certo, per quanto riguarda il discorso di Hegel sull'antico, si capisce, non finisce con i testi che io ho citato. Il professore Crista ha ricordato le pagine delle lezioni di filosofia della storia per quanto riguarda anche lo Stato. Io mi sono arrestato perché ci tenevo diciamo al parallelismo, però anche lì, se ricordo bene, qui con riferimento a quelle che sono, io credo, chiamiamoli così, i suggerimenti di quella che sarà poi la soluzione anche droiseniana, lo Stato di Roma è l'universalità astratta che prepara il mondo moderno, è la totalità che si realizza, e quindi si problematicizza, credo molto, il problema del rapporto tra antico e moderno su un piano che mi sembra diverso da quello che aveva posto, l'impostazione che ne aveva dato Humboldt. Sono consapevole di non avere risposto ai problemi posti, né avevo la pretesa di farlo, ne ho preso nota il più che mi è accurata, perché sono osservazioni che mi aiuteranno nel ritorno su questi studi, quantomeno per la stesura definitiva di questa relazione. Quanto a rimanere ancora su questi studi, spero che questo non mi tocchi, perché oramai... Meine Damen und Herren, wir danken am Tessitore und allen, die sich in so großer Zahl an diesem philosophischen Thema beteiligt haben. Ich selbst war deswegen besonders überrascht, dass eigentlich die größere Zahl der Redner italienische Kollegen und italienische Studenten waren, die hier in brillanter Weise ihre Kenntnisse